Intanto ci colleghiamo con Milano e al telefono con noi c'è Andrea Cegna, collega e amico di Radio Onda d'Urto. Ciao Andrea. Ciao, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Allora, situazione sulle comunali di Milano. Beh, penso che il primo dato importante sia quello dell'affluenza. Un'affluenza che per la prima volta, credo, nella storia delle elezioni milanesi, comunali milanesi, non è arrivata al 50%. E questo ci racconta di una sfiducia importante della politica nei confronti della politica da parte dei cittadini milanesi. Sicuramente non ha concorso alla sfida elettorale, quindi alla voglia di andare a votare, la campagna elettorale del centrodestra con il candidato Bernardo, che ha rischiato anche di non partecipare all'atto finale della campagna elettorale, una campagna di centrodestra che è stata essenzialmente incentrata sullo scontro aperto tra Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini, con anche una spaccatura dentro alla Lega con la candidatura in solitaria di Paragone, che ha provato a portare quello spirito, diciamo, della Lega separatista da cui poi lui si è staccato. Quindi credo che il primo dato sia sicuramente questo dell'affluenza. I primi scrutini ci dicono, siamo a 79 sezioni scrutinate, che Sala potrebbe vincere al primo turno e a vincere soprattutto diventa in soggettiva il Partito Democratico, che viene dato sopra il 30%, sia dalle proiezioni sia dai primi spogli ufficiali. Già 5 anni fa aveva preso il 28%, addirittura in crescita, la lista Sala stabile al 7-9, c'è un crollo generalizzato delle sinistre sia dentro alla coalizione di centrosinistra. 5 anni fa era attorno al 3%, diciamo, la lista civica, espressione di quella che era Sinistra Ecologia e Libertà. Adesso Milano Unita, Sinistra per Sala, è data a poco più dell'1%. C'è una crescita significativa dei Verdi attorno al 5%, sembrerebbe, questo più o meno il dato. L'altro dato che emerge da Milano, almeno in questo momento sembrerebbe emergere da proiezioni, così come dallo scrutinio reale, è il crollo dei 5 Stelle. 5 Stelle che 5 anni fa erano sul 10% in città, qua addirittura sono sotto al 4%. Diciamo che questi sono per il momento i dati importanti. E nel derby, scusa, nel derby tra Fratelli d'Italia e Lega, che si discute molto del futuro di Salvini, della Meloni? Guarda, attualmente... allora, è avanti la Lega, ma diciamo che la Lega è leggermente sopra al risultato di 5 anni fa, era poco più dell'11%, adesso è al 12%, io ti parlo adesso degli scrutini reali, però comunque è data da una forbice tra l'11 e il 13%, Fratelli d'Italia tra il 10 e il 12%. E 5 anni fa era il 3%, quindi è una crescita significativa quella in termini, diciamo, percentuali. Poi nel centrodestra chi è che ha pagato del pegno, allora, se aumenta la Lega, che Fratelli d'Italia? Ha pagato pesantemente Forza Italia. Forza Italia 5 anni fa con Parisi al 20%, qua col 7%. Qua che ci dimostra una cosa, che a Milano la destra radicale, o così che si sposta troppo a destra, non riesce troppo a crescere in termini percentuali. La corsa al centro, quello che aveva fatto Forza Italia scegliendo il candidato lei 5 anni fa, ovvero di mettere un emule di Sala, Parisi, un city manager esattamente con una storia molto simile a Sala, 5 anni fa aveva pagato, aveva rischiato di portare a casa il risultato. In questo caso l'uomo Bernardo è stato scelto direttamente da Salvini, con una rottura anche con Forza Italia, e ripeto, in termini percentuali questo è il dato. Ovviamente adesso resta da capire un po' quei flussi di voto, vedere i risultati diciamo non percentuali ma numerici, quindi a fine spoglio lì si capirà esattamente dove sono mancati i voti. La sensazione che ho io, ve la dico così a pelle, è che una parte importante del popolo del centrodestra non sia andato a votare. Quindi potrebbe essere che Sala, in termini materiali, non abbia molti più voti di 5 anni fa. quello che mancano potrebbero essere i voti del centrodestra. Così ve la dico, ovviamente è una sensazione, certo. Magari più tardi o domani, quando ci saranno i dati scorporati, lo potremo sapere. L'altro dato, secondo me, importante, e poi non mi dilungo, sarà quello di capire quali sono le zone della città che non hanno votato. Se il centro, perché ieri per esempio il centro città aveva votato solo all'11%, attorno alle 4 del pomeriggio, o sono state le periferie, perché anche questo potrebbe essere molto importante, perché una delle grandi retoriche del centrodestra e della Lega è stata: Sala parla delle periferie, ma nelle periferie non ci va. Vedere il risultato delle periferie sarà importante, perché vi ricorderete forse che 5 anni fa essenzialmente il centro-sinistra era dominante in zona 1 a Milano, debole più ci si allargava, tant'è che aveva perso anche 5 delle municipalità della città, quelle fuori dal centro. Sarà anche interessante vedere, questo qui però si capirà dopo lo spoglio per il sindaco, come sono andate le elezioni nei vari municipi. Questo sarà un dato importante anche qui per capire un po' questa dimensione. Ecco Andrea, ti faccio un'ultima domanda che riguarda la sinistra, diciamo fuori dal centro-sinistra, perché ci sono a Milano almeno 3 liste, ad esempio con falce e martello nel simbolo, che non raggiungono ciascuna nemmeno l'1%. Siccome è un argomento che per certi aspetti, magari non identico, si ripresenta anche a Bologna, quali sono, perché non sono andati insieme, qual è appunto il problema a Milano? Guarda, il problema se fosse a Milano sarebbe più semplice probabilmente da gestire, come un po' ha detto te, mi parlo un po' più generalizzato dentro gli ambiti delle sinistre, che hanno perso da un lato un pezzo di identità, dall'altra mi pare che quello che risponde elettoralmente oggi è il cosiddetto voto utile, cioè chi va a votare, chi pensa che l'alternanza democratica, cioè questo centro-sinistra o centro-destra, possano essere delle opzioni valide per il governo. Mi pare di cogliere che tutti quelli che una volta votavano per stare all'opposizione, ma avere un'opposizione parlamentare importante, oggi siano abbastanza sconfortati e non passano da questo tipo di ritualità. Tant'è che anche la lista di Mariani, che racchiudeva i comitati ambientalisti, tutta una serie di realtà che poi in città sono importanti, esistono, si battono, è attorno all'1,38%, quindi fa capire anche che probabilmente una parte anche di quel mondo che frequenta quel tipo di consessi e di pratiche di lotta non riconosce poi questo tipo di strumento. È forse da interrogarsi se insomma le istanze di sinistra dentro questo tipo di democrazie possano avere un loro peso, nel senso che anche i programmi più radicali portati spesso sono stati diciamo nella storia del nostro paese, parlo anche proprio delle coalizioni, molto spesso lontani dalla realtà dell'applicazione, e quindi forse c'è tutta una serie di persone che non riconosce più questo strumento, quello del voto, come un elemento di espressione di democrazia. Anche questa, nel senso, è una mia percezione e sensazione. Dall'altro, su perché si va divisi, perché appunto secondo me c'è anche una frustrazione nella difficoltà di essere influenti, e quindi invece che un lavoro di ricerca di consensualità per cercare di essere più forti, si fa un discorso identitario che sicuramente non paga. E a tuo parere le giornate dei Fridays for Future quanto hanno inciso sul risultato dei Verdi? Secondo me poco, perché in questo momento i Verdi italiani sono anche loro alla ricerca, mi pare, di un'identità, di una capacità di saper incidere anche su tutta la composizione delle proteste Verdi. Io credo che finché non ci sarà una chiarezza da parte della politica su che tipo di ambientalismo si vuole portare avanti e rappresentare, più questo è difficile. Voglio dire, i verdi italiani sono un po' un misto, lo sappiamo, no? Un po' storicamente tra alcune pulsioni delle sinistre comuniste di stampo ambientalista, invece un ambientalismo radicale molto diverso invece, non so, dai verdi tedeschi o centroeuropei, che ammiccano spesso al capitalismo verde. Cioè, ci sono due identità differenti, secondo me nuovi verdi si stanno formando, è interessante che però continuano a essere leggermente in crescita, di poco ma leggermente in crescita. È anche vero che i Fridays for Future hanno, mi pare, sempre di più una composizione molto giovane, molto spesso ancora esclusa dal voto. Certo, grazie mille Andrea.